mostra la rubrica Regola d'arte dei 103.1 come ogni giovedì, portata dal Breakfast Club. Già il titolo di questa rassegna è tra l'altro dedicata a una figura che conosceremo, fondamentale per la diffusione, lo studio in ambito artistico. Ma dicevo, il titolo tramando che ha diverse accezioni, se vogliamo, no? Francesco Arcangeli tra la Pinacoteca Nazionale e la Galleria d'Arte Moderna di Bologna. La curatela è della direzione Lorenzo Balbi e per la Pinacoteca Maria Luisa Pacelli. Questa prima parte, se vogliamo, di cui daremo approfondimento insieme a Maria Luisa Pacelli, troviamo la Pinacoteca, poi ci sarà ovviamente, e ne daremo anticipazione, anche la collaborazione, la presenza fondamentale del Mambo, Museo di Arte Moderna a Bologna, con Lorenzo Balbi. Francesco Arcangeli, portando, come vi ho detto, il riflettore su una figura che ha dato diverse possibilità e anche motivo ulteriore di conoscenza artistica. Troviamo le date, gli incontri e soprattutto quello che è nei coprotagonisti di questa rassegna tramando, la conoscenza nella conoscenza. Francesco Arcangeli nasce a Bologna il 10 luglio del 1915, uno dei più importanti storici dell'arte italiana del secondo Novecento. Ha inciso su molti critici d'arte, sulla critica d'arte, anche scrittori della sua generazione e di quelle successive: Giorgio Bassani, Italo Calvino, Pierpaolo Pasolini, Gianni Testori. La sua prima passione è stata la poesia, come testimonia il volume Polvere del Tempo nel 1943. Il suo maestro è stato grande Roberto Longhi, titolare della cattedra di storia dell'arte medievale moderna presso l'Università di Bologna a partire dal 1933. Comunque, per quanto riguarda poi un motivo di identikit a proposito di Francesco Arcangeli, si parte con questi segmenti di dialogo grazie alla direttrice della Pinacoteca di Bologna, Maria Luisa Pacelli. Francesco Arcangeli è stato un grande storico dell'arte, un grande critico d'arte e anche una personalità, diciamo, particolare, il cui influsso, come dire, è andato oltre quello strettamente storico-artistico, in quanto coloro che hanno avuto la fortuna e il privilegio di assistere alle sue lezioni, che lo hanno anche conosciuto, hanno sviluppato un legame particolare con quest'uomo che dentro la propria disciplina metteva tantissima passione. E questa passione riusciva a trasmetterla appunto a chi gli stava vicino. Quindi grande critico d'arte, grande storico dell'arte, che ha lavorato, essendo bolognese, ha lavorato molti anni a Bologna in diversi ruoli, non solo la docenza universitaria, ma ad esempio ha affiancato Cesare Gnudi nel dopoguerra, nel ripensamento della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Come raccontare l'incredibile patrimonio che è qui conservato e lo era anche allora. Inoltre è stato uno dei direttori della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, ovvero l'attuale Mambo, ed è per questo che con Lorenzo Balbi, con il direttore del Mambo, abbiamo pensato di costruire un programma comune. Francesco Arcangeli ha concepito la storia dell'arte come un continuum, non come un qualcosa che necessariamente debba essere divisa in epoche e, come dire, non ha mai visto gli artisti incastonati o intrappolati dentro la propria epoca o dentro un certo movimento. La forza del suo pensiero sta anche nell'aver dato, da questo punto di vista, una lettura originale, una lettura inedita che travalica i secoli. E ha molto anche lavorato e ragionato sull'arte del territorio da cui lui stesso proviene, ovvero l'arte bolognese. E così facendo, sulla falsariga del suo maestro, che era Roberto Longhi, ha tracciato una linea continua che va dal 300 fino a Morandi, ed è anche per questo che certamente ciascuno ragionando sul proprio patrimonio, ma con il Mambo abbiamo voluto fare un progetto unico. East side, west side, uptown, downtown, there's one thing all New York City has, and that's jazz. A while ago there were cats reading while cats played jazz behind them. There was nothing happening, so the musicians cooked right on like they didn't even mind them. I wrote the shortest jazz poem ever heard. Nothing about hugging, kissing. One word. Listen. A proposito di grandi maestri, la colonna sonora che ho voluto portare è New York, New York and the Jets in the Space Age. George Russell, direi che come grande maestro è la sua orchestra. Orchestra che vede Art Farber, Bill Evans, John Coltrane, Paul Bley, aggiungo anche Phil Woods, altro grande musicista, e Benny Golson per quanto riguarda questi insieme di sax tenori, dove troviamo, come vi ho detto, John Coltrane, e poi, come ho citato, al pianoforte Bill Evans. Gli incontri in Pinacoteca sono già iniziati, ma ho voluto portarne approfondimento in quanto ho grande valore per la nostra città e per le iniziative d'insieme tra Mambo e Pinacoteca. L'idea di Tramando, che già, come ho detto, mettere insieme, fra l'altro, come avete ascoltato, dal 300 fino al 900 con il protagonista Giorgio Morandi per la nostra città, ma con uno sguardo assolutamente totale. Francesco Arcangeli ha avuto modo, oltre che avere diverse sedi espositive come direzione, anche motivo di approfondimento completo. Allora, come saranno strutturati, come sono strutturati, entriamo con Maria Luisa Pacelli direttamente a conoscere motivi di incontro e percorsi, in questo caso, a modo loro, però in mostra. Sì, dunque noi abbiamo immaginato diversi appuntamenti, è appena iniziato un gruppo di lettura tenuto da Iadranca Bentini, che è stata una delle allieve di Arcangeli, nonché nella sua veste di soprintendente è stata anche direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna, quindi una persona che conosce molto bene sia il critico che questo museo. Questo gruppo di lettura, che avrà luogo tutte le settimane fino a giugno, in questo gruppo di lettura si affrontano alcuni testi molto importanti di Arcangeli. Perché noi abbiamo voluto fare un gruppo di lettura? Perché parte del valore dell'eredità di Arcangeli come storico dell'arte passa attraverso la sua prosa, che è una prosa poetica, è una prosa densa di significati dati anche, diciamo, dal tono, dalle sfumature che Arcangeli riusciva a declinare attraverso il suo linguaggio. Quindi abbiamo ritenuto importante tra le proposte della Pinacoteca anche delle letture proprio per andare a, come dire, a conoscere, a capire questa lingua e gli effetti straordinari di conoscenza che produce. Anche questo sempre sulla falsariga e sull'esempio del suo grande maestro che era Roberto Longhi. Quindi c'è questo programma di letture, ci sarà una conferenza tenuta da Mirella Cavalli, che è la responsabile delle collezioni della Pinacoteca, è una storica dell'arte, e che racconterà il rapporto di Arcangeli con la Pinacoteca Nazionale di Bologna attraverso i documenti che noi ancora oggi conserviamo nel museo, che possono essere anche degli appunti, ad esempio liste di opere per le biennali di arte antica in cui Arcangeli affiancava nudi e i vari comitati scientifici nella loro realizzazione, o documenti che parlano di trasferimenti di opere durante la guerra. Insomma, attraverso questi documenti vogliamo far capire come lavorava Arcangeli e che cosa ha fatto in questo museo, appunto, a fianco a nudi. L'ultimo incontro è stato martedì 14 maggio, il Bastianino è stato coprotagonista per quanto riguarda questi approfondimenti. Detto comunemente Bastianino, all'anagrafe dell'epoca siamo a Ferrara, nei prima metà del Cinquecento, lui già dell'Officina Ferrarese, di cui sapete bene ho grande passione, ha preceduto tra questi ultimi maestri chi ha concluso ufficialmente l'Officina Ferrarese nel Rinascimento Estense, cioè il grande Bonomi, di cui spesso abbiamo parlato. Allo stesso modo Sebastiano Filippi, detto il Bastianino, ha avuto modo di aggiungersi a tantissimi altri artisti. Abbiamo lavori come l'Adorazione dei Pastori, che è conservata nel Museo di Palazzo Ducale di Mantova e vi consiglio, anzi vi obbligo assolutamente alla visita. Collaborazioni diverse per adornare il Palazzo Ducale della città estense, il Camerino delle Duchesse, insomma un artista che certamente merita già di per sé, come la stessa corrente artistica ferrarese, un'attenzione ulteriore. Magari ne avremo anche qualche frangia di presentazione. Grazie a Lorenzo Pauri per la redazione culturale di Radio Città Fujiko, che ha presenziato a questi incontri, anzi a questo incontro. Mi ripropongo dopo questa presentazione, magari nei last minute che precedono la rubrica in mostra, di darne un assaggio anche alle ascoltatrici, agli ascoltatori dei 103.1. Fra l'altro il prossimo sarà giovedì 30 maggio una gloriosa gara, l'oratorio di San Colombano. Martedì 4 giugno protagonista o coprotagonista sarà Monet, collana Rapporti della Soprintendenza, Nuova Alfa Edizioni, Bologna, è stato edito nel 1989. Allo stesso modo, a proposito di incontri, natura ed espressione nelle opere della Pinacoteca Nazionale di Bologna, a cura di Maria Luisa Pacelli, con la collaborazione di Grazia Agostini, 23 maggio 2024, un percorso che arriverà fino al 6 gennaio 2025, percorso all'interno del museo che pone attenzione sulle opere e gli artisti scelti da Arcangeli per la mostra Natura ed Espressione, tenuta nel quadro delle Biennali di Arte Antica presso il Palazzo dell'Archiginnasio nel 1970. Il 23 maggio invece presentiamo un percorso, un itinerario all'interno del museo che ho curato assieme a Grazia Agostini. Grazia Agostini è una storica dell'arte che è stata funzionaria del Ministero della Cultura e ha lavorato nella Soprintendenza di Bologna per molti anni e quindi anche lei conosce benissimo questo patrimonio e conosce Arcangeli, e abbiamo riprodotto in qualche modo all'interno del museo una mostra molto importante che Arcangeli curò nel 1970 e che racchiuse, diciamo, gli studi fatti nel corso di tanti anni. Questa mostra si intitolava Natura ed Espressione e l'itinerario accompagna il visitatore all'interno di questa mostra attraverso le opere che erano allora e che sono tuttora della Pinacoteca. Attraverso questo itinerario si incontreranno le parole di Arcangeli legate a queste opere e si capirà qual era, diciamo, questa interpretazione dell'arte emiliana e bolognese che Arcangeli sviluppa negli anni in cui studia appunto l'arte di questo territorio. In settembre ci sarà una conferenza sempre ospitata in Pinacoteca e tenuta da Elena Volpato. Elena Volpato è una curatrice della Gamma di Torino che da molti anni studia Francesco Arcangeli e la sua conferenza si intitolerà proprio Tramando, ovvero questo concetto fondamentale che lega gli artisti di diverse epoche, di diversi secoli nella concezione di Arcangeli. La conferenza di Elena farà da trade union tra il nostro programma e quello del Mambo. E a proposito di collaborazioni, anche in questo caso era tanto tempo che ci tenevamo a fare, insomma, un'iniziativa assieme a questo splendido museo cittadino e quindi anche questa è un'occasione, diciamo, di intrecciare dei rapporti, sì, e condividere delle conoscenze. Io ringrazio tantissimo la direttrice Maria Luisa Pacelli della Pinacoteca di Bologna, appuntamento per un altro motivo di conversazione e di incontro, e auguro una buona giornata. Grazie mille, buona giornata a tutti. Una sorta di G-Day tra George Russell e anche Gunther Schuller, oltre che Jim Hall, in questo volume meraviglioso che è Jazz Abstraction. Perdonate qualche scricchiolio, probabilmente l'ho ascoltato troppo questo disco, che ho trovato usato, pensate. Ornette Coleman, Eric Dolphy, Bill Evans, Jim Hall, Scott LaFaro. Ci accompagna alla pubblicità, a breve sono le 8:30 minuti, quindi siamo puntualissimi anche con gli stacchi in seguito a quello che è il contenuto nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, grazie al contributo, al lavoro, l'entusiasmo, la forza di Maria Luisa Pacelli, che ha dato alla sede espositiva prestigiosissima Felsinia veramente un ulteriore, oltre che già di per sé la bellezza, il valore del contenuto del percorso in mostra. La Pinacoteca a Bologna è di una bellezza stratosferica, con iniziative di approfondimento culturale e di conoscenza, insomma direi che ci siamo e come per valorizzare tutto ciò. Eccoci qua, quindi come vi ho detto gli incontri li seguiremo, magari ne prenderemo un paio, due o tre minuti per darne una presentazione in seguito al giovedì in mostra nei last minute, e intanto come ho detto a breve gli spot per l'incontro che è stato all'interno di Tramando per la giornata del 14 maggio il Bastianino, ne parleremo magari di rientro e in questo caso ascolteremo la voce di Yadranka Bentini per quanto riguarda queste conversazioni in prosa. A tra poco e buon ascolto. Don't need another resolution to feel as though I'm going somewhere, somewhere. you needed me, or at least that's what I thought. At times, the memory seems to be knocking at my door. I've seen the film a million times, feels like I wrote the storyline. I refuse to replay the mistakes that we made yesterday. Stronger now, a victim of common sense. The truth is that I know I still confuse the past with the present tense. Condensing what we had to a single frame sticks in my mind as I try to move on. The same image comes back every time. Tornando in diretta alle 8:39 minuti di questo 16 maggio, giovedì, giornata di forza per la rubrica In mostra al Breakfast Club. Pinacoteca Nazionale di Bologna e Museo di Arte Moderna di Bologna si parte con la Pinacoteca. Abbiamo sentito l'introduzione e i motivi di incontro tramando con protagonista Francesco Arcangeli. L'incontro che si è tenuto Radio Città Fujiko c'era ufficialmente, adesso ne avremo la prova provata con Lorenzo Pauri, che è qui con noi. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie intanto per l'ottimo lavoro, poi magari assieme avremo modo per altri incontri in Pinacoteca di dare queste piccole sintesi, queste piccole pillole per conoscere direttamente queste letture, conversazioni con coprotagonisti sulla linea di Francesco Arcangeli. Il Bastianino, ve ne ho già parlato in precedenza, e intanto Lorenzo, allora ti chiedo come si è tenuto l'incontro, come è stato strutturato, prima di sentirne 3 minuti di introduzione. Beh, è stato dato un documento scritto da Arcangeli in cui affrontava i concetti, i quadri del Bastianino e cercava di raccontare la sua storia, comunque ripensata da Arcangeli, perché si hanno poche informazioni sulla storia del Bastianino e quindi è stata ricostruita in maniera fantasiosa. Da questo documento è stato discusso in un dialogo con le persone presenti e guidato il dialogo da Gianfranca Bentini, bravissima, mi complimento tantissimo con lei, che è stata ottima nel tenere alta la conversazione, nel spiegare passi difficili, perché era un testo molto complicato, e a spiegare il contesto e tutto il contorno di Bastianino, che qual è il filo nascosto nel caso di Bastianino che si intreccia con le visioni del mondo che lega artisti diversi nel tempo. Nel caso di Bastianino è il fatto che, se pensiamo che sia un artista del 600-500, riprende dinamiche, riprende concetti che poi si vedranno nella metafisica. Arcangeli è uno dei primi a vedere questa cosa e lo racconta tramite un testo. E molto, già questo molto che hai riportato comunque è molto interessante, tra l'altro tramando appunto questi fili che arrivano oltre il tempo. Perdonate l'audio perché è una conversazione pubblica, però è interessante ascoltare le parole di Gianfranca Bentini, questi 3 minuti di introduzione. Io faccio una brevissima introduzione tentando, così come ho fatto la volta scorsa, di contestualizzare questo scritto, che è uno scritto del 1963. Quindi siamo nel pieno della maturità di Francesco Arcangeli, che ha già dato prova di sé sia, diciamo, sull'arte cosiddetta, chiamiamola antica, sia sull'arte contemporanea, perché già negli anni precedenti ha scritto di artisti contemporanei, artisti dell'Ottocento, artisti del Novecento, ma anche a lui contemporanei. Questo dato della contemporaneità è qualcosa che affiora sempre in tutti i suoi saggi. Dopo leggeremo un pezzo su Bastianino come artista e vedrete che lo raffina, diciamo, proprio con animi a lui contemporanei. Lui sta scrivendo in quel momento, anzi sta per licenziare in quel momento, alcuni saggi molto importanti. Lui scrive questo e fa una dichiarazione immediata, cioè inizia facendo un omaggio al suo maestro, il quale maestro aveva già dato delle indicazioni per la lettura di questo pittore, riportato, è vero, dalle fonti storiografiche ferraresi, ma non tenuto in grande considerazione, quindi un pittore ancora da svelare, di fronte a figure invece eminentemente più note. Perché? Perché la grande storiografia, la grande storia dell'arte, da Vasari in poi, come l'ha impostata la storia dell'arte? Per tappe che sono identificabili su determinati protagonisti oppure su determinate scuole. Ecco, questo personaggio intanto compare in una scuola che fino agli anni 30 non era considerata, e cioè la scuola ferrarese, che invece è importantissima. Ma c'è un antefatto che sta rispetto a questo antefatto, però, vedete che sono scatole cinesi, ma bisogna dirle, perché se no non si coglie poi perché lui sia così entusiasta, diciamo così, di questo artista, che è un artista di forme, che è un artista non rivoluzionario, intendiamoci bene, molto diverso, cioè è un animo inquieto, sicuramente è un animo inquieto, ma è un animo macerato, diciamo così, da quello che è il portato del suo tempo. Quindi da monografia diventa in effetti un libro di tematica e di contesto storico, non è in effetti una biografia questa di Sebastiano Filippi, detto il Bastianino. Sì, lui, come dire, fa scorrere delle sue idee ricostruttive che noi sappiamo non essere esatte, ma nel 1963 non si erano scoperti tutti i documenti che si scoprono dopo, non erano state acquisite tante opere come si acquisiscono dopo, quindi diciamo si fondava su una conoscenza per noi oggi limitata di questo artista. Quindi se lo leggete non dovete prendere per oro colato, diciamo così, quello che lui dice nella ricostruzione. Quello dove invece, diciamo, è appagante assolutamente e ancora oggi riconosciuto come grande maestro, dov'è? È nella sua capacità di leggere Bastianino come interprete di un'epoca particolare della storia italiana, in particolare della storia. Conoscere queste particolarità e farlo con chi ha dato studio, grande ispirazione, talento e passione come Francesco Arcangeli, vedere dai suoi testi, trovare ad artisti come il Bastianino, che non ha avuto magari quel riflettore che meritava, ma essendoci veramente una quantità di artisti come nella Officina Ferrarese, tanti ne sono, riportare il valore che meritano tutti tutti e il più possibile con le loro capacità e peculiarità, decisamente è motivo e valore aggiunto di attenzione e ricerca. Quindi grazie a Iadranca Bentini, grazie a Maria Luisa Pacelli, direi anche grazie al nostro Lorenzo il Magnifico Pauri che è stato inviato speciale. Lorenzo c'è e in questo caso c'era e possiamo ufficialmente dichiararlo dal Breakfast Club. La prossima volta si paleserà in maniera più incisiva, ma vi assicuro che l'ottimo lavoro ha testimoniato insomma questa presenza. Onorati per la rubrica in mostra al Breakfast Club di poter dare queste piccole sintesi che porteremo già dalla prossima puntata. Dobbiamo lavorare sull'audio, ma lo faremo assolutamente. Questo è stato un numero sperimentale, da adesso in avanti per gli altri incontri avremo modo di migliorare anche l'aspetto audio. Prossimo appuntamento, Lorenzo? Prossimo appuntamento giovedì 30 maggio 2024. Sarò molto curioso di vedere cosa tirerà fuori dal cilindro magico Francesco Arcangeli, che parlerà di una gloriosa gara all'oratorio di San Colombano. Consiglio soprattutto a chi non è molto formato nell'arte, perché Iadranca Bentini vi inserirà totalmente in questa. Vi appassionerà. Sì, assolutamente. E intanto in mostra ne darà una sintesi, come vi ho detto in precedenza. Siamo giunti al termine, siamo puntuali dalla Svezia, anzi dalla Finlandia. Vi propongo Timo Lassi con questo brano che ci darà sigla di conclusione. A breve avremo, come ben sapete, l'Edipin enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, dalle 10.30 alle 12.30 con il grande rock Angela Zocco e Andrea Gozza verranno a tenervi compagnia per la mattinata odierna. Mattiniere e mattinieri, mi raccomando, vi aspetto puntuali alle ore 7, per domani sarà vigilia di weekend e andremo in scena. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1 e a domani alle ore 7, come già vi ho detto. Con un caloroso abbraccio mi congedo a voi da William Piana e Lorenzo Pauri. Un buon giovedì. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao, grazie Lorenzo. Ciao. Grazie.